Partirei dalla fine, cioè partirei da questi giorni per raccontarne un po' forse l'emblema. Si parla tanto della necessità di tracciare, capire se le persone sono ammalate, sono state ammalate, cercare di capire che sviluppo ha avuto il virus. Bene, in Lombardia i test sierologici e quindi poi spesso anche i tamponi sono legati alla sanità privata, nel senso che se uno non ha dei chiari sintomi di Covid-19 continua a non ricevere il tampone, se vuole fare il test lo può fare, sono stati liberalizzati gli ospedali privati, e non solo gli ospedali privati, anche i laboratori privati, con la differenza che addirittura se uno fa il test sierologico in un laboratorio e non in un ospedale privato risultasse positivo, la comunicazione non va neanche in automatico all'AST, all'ente che gestisce la sanità. Questo ci racconta di un progetto di sanità pubblica inesistente, perché se i test sono un qualcosa determinante per evitare che il contagio possa proseguire, questo dovrebbe riguardare la sanità pubblica e quindi dovrebbero essere, dico, appannaggio di tutte e tutti. Così non è. Questo ci racconta di un modello basato sulla sanità privata che, nonostante i disastri che abbiamo vissuto in regione, non viene messo in discussione. Risalendo, diciamo, all'inizio della pandemia, possiamo dire con un certo margine di certezza che i focolai più grandi si trovano là dove le attività produttive non sono state fermate? Guarda, sicuramente si trovano laddove ci sono delle contiguità tra la produzione e le città, e soprattutto dove non c'è stato il coraggio di fermarsi. Sto parlando sicuramente di Alzano Lombardo e Nembro, che sono state spesso citate, in provincia di Bergamo, attaccate di fatto alla città di Bergamo, che sono sicuramente un polo produttivo, ma anche per esempio a Brescia, la città di Ordinuovi, che è un paesotto non come Alzano Lombardo e Nembro attaccato a Bergamo, ma legato comunque in continuità a Brescia, che anch'esso era stato indicato dall'Istituto Superiore di Sanità come necessitante di una zona rossa, non sono state chiamate, e lì vediamo che Bergamo e Brescia sono state sicuramente nella fase iniziale della pandemia le due province della regione lombarda maggiormente colpite. Quindi diciamo che questa vicinanza c'è tra, appunto, la presenza di zona industriale e focolai, soprattutto il fatto che, non, a differenza di quanto è accaduto a Codogno, non c'è stato un pronto intervento. In questi mesi abbiamo visto anche una sorta di scontro istituzionale tra la regione e il governo. Questo in qualche modo può aver influito? In qualche modo sì, anche se non in maniera del tutto determinante. Credo che lo scontro governo-regioni sia anche tuttora in corso e risponde a tutta una dinamica politica molto anche complessa. Sicuramente i governatori della Lega, diciamo, hanno giocato la partita dell'autonomia differenziata, del sogno di un paese regionalizzato, e hanno usato la scusa del Covid-19 per giocare questa partita. Diciamo che alcuni l'hanno fatto meglio, alcuni l'hanno fatto peggio. Ovviamente parlo che sicuramente la gestione di Zaia in Veneto, da un punto di vista poi del risultato nel contenimento delle vittime e del contagio, è stata più efficace. Sicuramente si scontra sempre a livello strutturale delle scelte passate e il fatto che nemmeno di fronte a una pandemia si abbiano delle logiche comuni nel sistema sanitario. Cioè, io credo che di fronte a una malattia come un virus che non riconosce certo i confini comunali, provinciali e regionali, ci vorrebbe, e l'abbiamo visto, un protocollo unico a livello italiano sul come muoversi, perché il fatto che soprattutto nella fase iniziale le regioni abbiano potuto fare un po' come volevano ha portato ovviamente alla situazione attuale. Si è parlato molto sempre in queste settimane, in questi mesi, anche dell'ospedale in fiera. Quello lì, diciamo che resta un, proprio ritorniamo all'idea iniziale, come la sanità diventa un elemento di speculazione, invece che rafforzare con forza tutti i presidi territoriali, si è deciso di fare un ospedale che doveva all'inizio contenere 600 persone, è arrivato ad ospitarne al massimo 30, costato 21 milioni di euro. Questa è un po' di la somma tra due cose: da un lato proprio l'idea di sanità che è insita dentro la regione Lombardia, ovvero questo sistema che non è misto privato pubblico, è un sistema totalmente schiacciato sul privato, e quindi la sanità come elemento di guadagno, e dall'altra la questione dei commissari unici e speciali, che sono un terreno sempre molto scivoloso, perché dare pieni poteri nell'logica dell'emergenza a una persona poi porta anche a queste cose. Sicuramente è stato un flop sia numerico che di utilità, ma soprattutto mi viene a dire proprio di ragionamento: serve un presidio forte sui territori e un'idea generale di sviluppo di sanità. Con quei 21 milioni probabilmente si poteva, per esempio, garantire una cosa che è stata letale sicuramente nella prima fase della pandemia, ovvero la presenza di guanti, mascherine, scanner per la temperatura e saturimetri, sia per le persone private ma sia soprattutto nei centri di cura, perché ospedali e RSA in Lombardia sono state i primi focolai che hanno moltiplicato questa situazione drammatica.